Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie del vostro cortese ascolto, grazie a Barbara Sorrentini per la regia. L'appuntamento rimane confermato per domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata a tutti. Salve a tutti.